Cari amiche, cari amici, benvenuti a Brussellando a Radio Alma, Mariddì ai microfoni. Vi do il benvenuto e spero che questa puntata possa soddisfare le attese. Ho già ricevuto qualche mail di curiosità e ogni curiosità sarà svelata in questi primi 57 minuti. Saluto Dani M. Regia. Buona serata a tutti. Salutiamo i nostri Fiordaliso e Georges Laurent, i quali sono rientrati da un bel viaggio negli Stati Uniti, però sapete com'è, il fuso orario non gli ha concesso di essere qui con noi, speriamo di riaverli martedì prossimo. Volevo ringraziare e salutare anche gli organizzatori del Festival d'Europa al quale noi abbiamo partecipato e tra qualche giorno speriamo di potervi inviare un po' il resoconto di questa manifestazione straordinaria che si è svolta proprio a Firenze tra il 7 e il 12 maggio. Volevo anche rasserenare e rassicurare tutti coloro i quali hanno scritto alla nostra redazione e che ancora purtroppo non hanno avuto risposta. Prometto che risponderò a tutti nei prossimi giorni. Questa è una promessa. Bene, invece passiamo al nostro ospite in studio, perché abbiamo due ospiti, uno in studio e l'altro al telefono. Ed è con noi, ritorna veramente un ritorno gradito, Marco Di Martino. Marco, benvenuto. Grazie, ciao a tutti, buonasera. Marco era stato con noi l'anno scorso e ci aveva raccontato di quella che era la sua pièce teatrale, del tempo. Invece quest'anno ritorna con due atti unici. Allora, poi ci spieghi tutto quanto, però innanzitutto complimenti per l'audacia. Porti in scena un argomento molto caro alla tradizione napoletana, quella del gioco. Mi viene in mente, per esempio, Non ti pago di De Filippo, ma in chiave moderna, tant'è che oggigiorno il lotto è affiancato, tra gli altri, da un sistema più sofisticato che travalica i confini nazionali, l'Euromillion. Come mai porti in scena questo argomento? Ma diciamo che non c'è una vera ragione. Io ogni tanto mi vengono delle idee e le scrivo, le annoto e quando ho l'occasione scrivo la commedia. Nel caso di Euromillions, penso che sia una combinazione del fatto che gioco a Euromillions. Ogni tanto compro il biglietto e non riesco a resistere quando vedo la pubblicità, jackpot di 150 milioni di euro. E anche perché tempo fa vidi per puro caso su YouTube un vecchio sketch degli anni 50 di una storia simile. E quindi mi venne l'idea di dico, alla prima occasione scrivo una commedia o un atto unico come è stato. E qual è stato l'elemento poi che ti ha fatto scrivere, fatto cominciare a scrivere rispetto a Eurominions proprio? C'è Ma stato un evento? no, no, no, niente di Ah, niente di particolare. particolare. Ripeto, io ogni tanto mi ispiro da quello che succede, da quello Ok. che vedo e mi prendo nota, dico, ok, alla prima occasione scriverò una commedia su questo argomento. Ci puoi raccontare quindi sinteticamente della pièce? Sì, dunque, in realtà, come hai detto tu, si tratta di due atti unici, vale a dire, non è una commedia con due o tre atti, ma sono due commedie separate, ognuna di un atto solo. E non hanno nulla a che vedere una con l'altra. Quindi abbiamo la prima, è appunto Euromillions, e la storia in sé, diciamo, è abbastanza banale. È una coppia che hanno delle difficoltà economiche e scoprono di aver vinto appunto a Euromillions, hanno vinto veramente il grosso lotto. Solo che hanno un piccolo problema perché non sono più in possesso del biglietto. E quindi c'è la caccia al biglietto che è passato di mano in mano. E quindi intervengono i vari personaggi che hanno avuto in mano il biglietto con il finale a sorpresa che amo tanto. Il secondo atto unico si intitola Ferale Notizia ed è la storia sono due meccanici che a un certo punto devono annunciare a una persona che non conoscono che hanno ripescato la macchina della moglie dal fiume, quindi la moglie è morta e addirittura non hanno trovato nemmeno il corpo. La trama sembra veramente tragica, però vi posso assicurare che è estremamente divertente perché nasceranno una serie di equivoci e anche lì, come io amo sempre fare nelle mie commedie, il solito finale a sorpresa. C'è un autore o più autori ai quali ti ispiri mentre scrivi? Sì, diciamo, così, la mia, piccolezza di autore dilettante. Mi ispiro a quelli che ritengo tra i comici migliori, più brillanti, più divertenti, Totò, Luigi Proietti, Carlo Verdone, sono quelli che ammiro di più. Mi sembra che veramente sei in ottima compagnia, hai citato tre nomi straordinari della nostra cultura italiana. Soffermiamoci un momento su Euromillions. La società contemporanea, più che in passato, ha elaborato diverse forme di guadagni immediati. Si è passati dal lotto alle decine di gratti e vinci, ma anche ad altri giochi e talk show televisivi ben rappresentati dal film di Garrone Reality. Come tratti di questo aspetto nella commedia? Cioè mi riferisco all'illusione, la speranza di cambiare radicalmente la propria vita. Ma in effetti è un po' quello. Io diciamo non pretendo di trasmettere dei grandi messaggi nelle mie commedie. Però è vero che in questo caso si vede a un certo punto alcuni dei personaggi che discutono di come spenderanno i soldi, stanno già facendo i progetti, quando ancora non hanno nemmeno recuperato il biglietto. Quindi è vero che diciamo, se uno avesse vinto già potrebbe cominciare a fare dei progetti anche se non ha ancora in mano i soldi, ma questi addirittura non hanno neanche il biglietto e già stanno pensando a come spenderli. E alcuni addirittura ce n'è uno che spende ancora di più di quello che ha guadagnato. E questo poi supera effettivamente anche la normalità. Quindi tu metti insieme questi due atti unici, però totalmente diversi tra di loro. Come mai non hai deciso invece di dargli un seguito piuttosto? Ma è una cosa, diciamo, che cerco sempre di evitare. Non so, è una cosa che non mi piace avere il filo conduttore. Ecco, a differenza di altri registi, quando preparano altri spettacoli, anche nell'ultimo spettacolo che abbiamo fatto a marzo, Cabaret, era una serie di sketch, e anche lì erano completamente staccati uno dall'altro. In realtà c'è un qualche cosa che lega i due atti unici, perché c'è un'attrice che interpreta lo stesso personaggio nei due atti unici. Ah, ok. Anche se veramente il primo si svolge a Lugano di giorno d'estate e il secondo è nell'est italiano, Veneto, Trentino, non è detto esattamente, d'inverno la sera. Però c'è questo personaggio che esiste in entrambi gli atti unici. Quindi il teatro si conferma al pari delle altre forme artistiche anche come, diciamo, è capace di raccontare, si fa interprete e testimone dell'attuale spaccato sociale, perché entrambe le due pièce, o comunque due atti unici, raccontano qualcosa che accade realmente. Ma in realtà io penso che il teatro non inventa niente, si limita a mettere in scena. Possiamo vederlo come un modo di leggere le idiosincrasie della società, quindi in un caso abbiamo l'avidità per i facili guadagni e nell'altro invece il problema di dover veramente fare qualche cosa di estremamente sgradevole, come annunciare la morte di una persona, di una persona amata. In realtà per me, ma sicuramente parlo a nome anche di tutti gli altri componenti della compagnia, è soprattutto un momento per passare al nostro pubblico, far passare al nostro pubblico una serata piacevole e ridere, divertirsi e non pensare a nulla. Credo proprio che ne varrà la pena. C'è un episodio buffo che ti piacerebbe raccontare, verificatosi durante le prove o invece legato alla pièce stessa, per esempio durante la stesura del testo? Ma diciamo, episodio particolare no, non direi. Una cosa, noi ci divertiamo tantissimo anche durante le prove. In effetti una cosa che ci ripromettiamo sempre di fare e non l'abbiamo ancora mai fatto è quello di filmarci durante le prove, perché poi ed avere, io preparo sempre anche un video della registrazione dello spettacolo, e sarebbe l'ideale filmarci durante le prove per poter avere poi alla fine, come si dice in francese, il bêtisier o il worst of delle scene, perché veramente ne succedono di tutti i colori, ma delle scene dove gli attori per esempio non riescono ad andare avanti perché continuano a ridersi in faccia, ad esempio. Allora, a proposito degli attori, magari ci puoi fornire qualche informazione sul cast? Sì, allora, come al solito, anche quello che mi piace che sia così, ci sono persone veramente di tutti i generi, abbiamo persone giovani e meno giovani. Una particolarità, abbiamo persino una straniera, una svedese, che era già presente, ha recitato già con noi in 13 in scena. E, diciamo, appartengono a tutti i generi, inteso in senso largo, nel senso che ci sono persone che studiano, che lavorano, che hanno occupazioni diverse, quello che ci accomuna è la passione e la voglia di fare teatro. Mi sembra essere un ottimo filo conduttore. E invece vogliamo ricordare dove avrà luogo, quando avrà luogo e a che ora? Ah, senz'altro, sono qui apposta. Allora, lo spettacolo va in scena il venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno alle 20, orario italiano, però cercate di essere puntuali. Ecco, c'è una novità. Per la prima volta siamo riusciti a combinare anche una degustazione di vini e olio italiano. E questa degustazione comincerà alle 19. Quindi un po' prima dello spettacolo. Prima dello spettacolo, continuerà durante l'intervallo e anche dopo lo spettacolo. Per cui, insomma, chi prima arriva, meglio alloggia. Eh beh, la regola di primo arrivato, meglio servito. Quindi ricordiamo dove però. Il teatro è il Teatro Saint-Augustin, in Avenue Saint-Augustin, quindi non potete dire che sia difficile da ricordare, si trova a Forêt, vicino alla chiesa di Altitude Saint. E se volete, per comprare i biglietti, vi potete, o la sera dello spettacolo evidentemente, altrimenti la vendita online è già disponibile ed è sul nostro sito www.lartedellacommedia.eu. Una piccola nota perché... Per il cabaret abbiamo avuto un piccolo equivoco. La vendita online termina a mezzogiorno del giorno dello spettacolo. Perché abbiamo avuto una persona che ha telefonato: ah, peccato, non posso venire, è già tutto esaurito. E invece no, era semplicemente perché la vendita online era terminata. Vorresti indirizzare un messaggio agli ascoltatori di Brussellando? Ma come al solito, io mi auguro di vedervi numerosi, anzi, che siate numerosi voi a vederci, anzi questa volta devo dire a vederli, perché per la prima volta non reciterò, ma sono soltanto dall'altra parte del palcoscenico, faccio solo il regista, e quello che mi auguro è di sentire tutto il pubblico ridere nel buio. E poi mi piacerebbe anche, per coloro che saranno intervenuti e anche coloro che vogliono semplicemente andare sul nostro sito, avere un feedback su cosa pensano del nostro sito internet. Mi sembra un'ottima iniziativa. E come pensi di fare? Distribuirai per esempio un questionario lì la sera? Esattamente, quello che facciamo sempre è la sera dello spettacolo distribuiamo un piccolo questionario. Ad esempio la volta scorsa per il cabaret ho chiesto che cosa ne pensavano, se era una formula che potesse piacere, perché è completamente diversa. È un po' sul stile, in più piccolo ovviamente, tipo Zelig o il bagaglino, ecco, cose di questo genere. Però dico, piace al pubblico, è una cosa che a me è piaciuto moltissimo e anche agli attori. Anche perché il vantaggio di avere gli sketch è la possibilità che ogni attore può essere protagonista. In una commedia puoi avere uno, due, tre protagonisti e gli altri hanno dei ruoli minori. Negli sketch invece, quando fai lo sketch, che sia una persona, due o tre, tutti sono protagonisti. Toglimi una curiosità, e che tipo di feedback hai avuto da coloro i quali hanno partecipato a cabaret? Per il cabaret? Sì. Il cabaret è piaciuto, quindi è una cosa che rifaremo l'anno prossimo, penso verso marzo, aprile. E l'idea della degustazione nasce come una vostra idea oppure è stato un suggerimento avuto tra i feedback? No, è stata un'idea di una delle componenti della compagnia, ha detto: ma io ho un amico, dice, perché non lo facciamo? Dice: certo, molto volentieri, perché è un qualche cosa. Poi mi è sempre piaciuto anche abbinare questi differenti aspetti della cultura, perché ovviamente anche il vino e l'olio, poi sono un gran ghiottone, quindi mi piace molto. Benissimo Marco, noi ti ringraziamo, ti auguriamo veramente all the best and lots more, come diciamo da queste parti. Brussellando posterà sul blog anche tutte le informazioni relative alla commedia e quindi speriamo di ritrovarci presto, magari ancora quest'anno oppure l'anno prossimo. Grazie a voi e ancora una buona serata a tutti quanti. Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate. Brussellando ritorna con un po' di agenda, è un'agenda ricchissima dal punto di vista degli eventi italiani che avranno luogo a Bruxelles. In ordine cronologico, perché è importante distinguere i diversi momenti. Il 24 maggio all'Ancienne Belgique, Gianna Nannini, per la prima volta in Belgio, quindi udite udite, partecipate perché credo veramente ne valga la pena, Gianna Nannini presenterà, credo in particolare, il suo ultimo album che è Inno. un album molto bello, molto particolare, vi piacerà, è una Gianna meno aggressiva, possiamo dirlo, meno rocchettara, però è ugualmente un'evoluzione estremamente interessante. Quindi Ancienne Belgique, ore 20, 24 maggio, ed è un venerdì. Invece, e Daniele, ricordiamo ai nostri ascoltatori che tutte le informazioni sul concerto di Gianna Nannini sono presenti sul nostro blog radioalma.eu/brussellando, con il link verso appunto i vari rivenditori dei biglietti, che è molto importante. Ti ringrazio, Dani M. Invece il 28, in realtà il 27 e il 28 maggio, Zucchero è in concerto, il 27 maggio ad Anversa e il 28 maggio qui a Bruxelles al Forêt National. Quindi alle ore 20 ugualmente, Zucchero è stato già più volte a Bruxelles, io l'ho visto l'ultima volta 6 anni fa, nel 2007, quindi sarà un piacere rivedere il nostro Zucchero in concerto. E poi da Campana, ovviamente sapete che gli eventi italiani mi piacciono tutti, ma quelli poi a matrice napoletana ancora meglio, sarà con noi Pino Daniele. Pino Daniele invece si esibirà presso il Teatro San Michel ad Etterbeck. Come sapete, il Teatro San Michel è in via Pierre, ecco, e ora la via mi sfugge. Però comunque il Teatro San Michel è molto noto, alle ore 20, e Pino presenterà soprattutto, in particolare, il suo ultimo album, La Grande Madre. Ora, non è più una sorpresa perché l'abbiamo annunciato sul blog proprio qualche ora fa, quindi ormai lo sapete. Però per quanti invece ci ascoltassero, stessero ora in macchina ritornando a casa, oppure sono già a casa e stanno cenando e stanno ascoltando Brussellando, sono molto molto contenta di trasmettere quella che è stata l'intervista che Pino ci ha concesso qualche giorno fa. Non vi stupite di qualche rumore di fondo, perché poi a microfoni spenti forse potrò anche raccontare quello che è stato il contorno a questa intervista, però io ringrazio veramente Pino per la disponibilità, e quindi l'intervista dura circa 15 minuti, io vi auguro un buon ascolto, avevo già preregistrato un messaggio che racconta anche del contenuto dell'album, quindi per maggiori informazioni ascoltateci adesso, perché ci sarà proprio tutto, tutto, tutto. Amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma Brussellando, Marie D ai microfoni, particolarmente emozionata perché riesce ad intervistare uno dei propri cantautori preferiti, quindi la voce sicuramente non riuscirà a nascondere l'emozione del momento. Mi riferisco a Pino Daniele, cantante tra l'altro anche napoletano. Questa sera parleremo del suo nuovo disco, La Grande Madre, che è stato anticipato circa un anno fa con il singolo Melodramma. L'album è composto da 11 inediti e tra i brani ci sono anche Searching for the Water of Life, realizzata per sostenere la Onlus Save the Children, e Wonderful Tonight di Eric Clapton, tradotta ovviamente e musicata da Pino. Pino Daniele sarà qui a Bruxelles in concerto il prossimo 8 giugno, siamo riusciti ad averlo per una veloce e breve intervista, e questa sera ve la riproponiamo integralmente. Per quanti non riusciranno a seguirci questa sera, l'intervista sarà poi riproposta sia nell'ambito della puntata di questa sera, sia invece nell'ambito della puntata del, se ricordo bene, del 4 giugno, quindi alla vigilia proprio della sua venuta qui a Bruxelles. Sentiamo cosa ci ha raccontato Pino. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma Brussellando, e come sapete ho il piacere di intervistare Pino Daniele. Pino! Ciao! Benvenuto, benvenuto a Radio Alma Brussellando! Allora, La Grande Madre possiamo definirlo un po' come il tuo primo disco indipendente. A me ha molto incuriosito il titolo, premetto che ti seguo ormai da sempre, perché il tuo primo album è stato realizzato nel 77, insomma io sono di quella generazione, quindi potrei cantarti molte delle tue canzoni. Però spiegaci, come mai La Grande Madre? Ma il discorso è che io sono un artista abbastanza che ha sempre passato tutto il suo periodo artistico alla ricerca, e quindi sono partito dalla canzone napoletana in realtà, però poi sono finito per contaminare questa canzone con tantissima musica, soprattutto del Mediterraneo e del blues. Quindi ho cercato sempre questa ricerca, era per me la grande madre, la terra, è la terra alla quale noi apparteniamo, è la terra che ci portiamo dentro con i nostri ricordi, con la nostra nostalgia, con la voglia anche di ritornare e con la voglia anche di portare le nostre radici in altri paesi, come per esempio gli italiani che vivono a Bruxelles, che vivono a Londra, che vivono a New York. Io ho trovato sempre questa voglia di un ritorno alle radici, e la grande madre per me è proprio la madre di tutto, è la terra alla quale noi apparteniamo, insomma. E quindi ho fatto questo viaggio musicale che prevede, si sentono delle atmosfere moderne, rock, blues, jazz se vogliamo, però che sono contaminate dalla musica del Mediterraneo, dalla canzone napoletana, dalla musica classica italiana. Assolutamente. Tra l'altro il primo brano di questo album è intitolato Melodramma. Hai scelto questo titolo e questa canzone per esprimere anche la situazione attuale? Ma è anche e soprattutto una tradizione ed un patrimonio italiano. Il melodramma nasce prima dell'opera e quindi è nato in Italia ed è praticamente questa fusione tra le parole e la musica, ed è una cosa nata da noi, cioè fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro essere italiani, e quindi per questo ho scritto questo brano, che è un brano molto teatrale, un brano legato alla cultura italiana, per mantenere sempre insomma viva questa voglia di essere italiani nella maniera più positiva possibile, cioè portatori sani di italianità, se vogliamo. Assolutamente. Tra l'altro, tuttavia, guardando un po' gli 11 titoli di questo tuo album, proprio il 12esimo, che è diciamo una rivisitazione di Wonderful Tonight con Eric Clapton, c'è un significato comunque più profondo e vasto che non si racchiude solamente con l'Africa, perché mi sembra di capire che il viaggio che descrivi attraverso la tua musica e le tue canzoni è molto più ampio. Sì, in questo disco è chiaro che ci sono delle altre aperture, però ho messo su un concetto di canzoni, melodie e pezzi soprattutto legati alla cultura mediterranea. Quindi ecco, per questo io cerco di unire le due cose, cioè la melodia della canzone italiana con la cultura partenopea, e quando mi riguarda con canzoni come Napule, Quando Chiove, Quando, eccetera, e unirla con il linguaggio un po' più mediterraneo, qualcosa che sì, c'è quel sapore americano di jazz, ma in realtà con una personalità propria. Ah. Ecco. Questo mettendo su nel gruppo, c'è la fortuna di avere anche Tullio Tediscovo che ritorna a suonare con me dopo tanto tempo, e stiamo riunendo un po' la band, e quindi stiamo facendo un discorso abbastanza musicale, molto molto legato alle nostre radici, quindi per questo io mi sono un po' fermato su quelli che sono i colori mediterranei. Assolutamente. Tornando poi al significato legato alla madre terra, c'è Searching for the Water of Life, che è anche dedicata a Save the Children. Puoi dirci qualcosa in merito? Sì, c'è questo pezzo che è dedicato a Save the Children perché è la voglia di dare una testimonianza e di dare qualcosa per aiutare, per avere una finalità sociale, per pensare ai bambini, cioè il futuro della nostra società sono i bambini, quindi mi sembrava, era una cosa più che altro che io sentivo di fare, e ho cercato di fare il migliore dei modi. Questo è altro pezzo che proporremo anche dal vivo. Beh, troverai tanti napoletani che parlano l'inglese, quindi credo che il matrimonio sia perfetto, si possa fare. Raccontaci invece come nasce la tua collaborazione con Eric Clapton. Fui chiamato 2-3 anni fa a fare questo festival a Chicago, e poi da lì ho conosciuto tante persone, e poi ho chiamato Eric a suonare a Capo di Tirreni, vicino a Salerno, per una fondazione sempre dedicata ai bambini, l'operazione di beneficenza. Abbiamo dato l'incasso per la costruzione di un padiglione dell'ospedale di Posillipo, e quindi insomma Eric, devo dire la verità, è molto sensibile a queste cose di beneficenza, quindi è arrivato per questo e abbiamo fatto una bella cosa. segno dei tempi che cambiano, parlando dell'inglese, sei passato da una tazzonella e caffè a coffee time. A coffee time, esatto. Alla grande madre è come se fosse il trasferimento di terra mia, cioè si ricomincia da capo. Si ricomincia da capo dopo 30 anni e dopo quasi 34 rischi, 35 rischi. E quindi si cambia pagina, si volta pagina, oggi i rischi non esistono più, esistono i file digitali, esiste un altro mondo che spero che non faccia di danni alla musica. La musica non morirà mai, la musica classica. Siamo tornati a quando si faceva la musica solo nei teatri, quando si faceva la musica solo nei posti e la gente andava ad ascoltarla, quindi siamo tornando a questo. Questa è la cosa che mi piace di più. Tra l'altro tu sei uno sperimentatore, insomma hai creato tante tonalità e musiche differenti. Ho notato però, correggimi se sbaglio, che in questo album prevale la strumentalità. Come sei giunto a queste nuove? Stiamo lavorando di più su questo aspetto, perché è l'aspetto che fa dell'artista l'artista in questo momento, cioè i concerti, la musica, la vocazione della musica è molto confusa, nel senso che si è confuso l'intrattenimento con quello che è il fare musica e fare arte, quindi sta diventando un po' tutto una mischia francese ormai che abbiamo noi, però In realtà bisogna distinguere quelli che sono i musicisti dai concerti e quelli che è l'intrattenimento, quelli che sono i famosi DJ, adesso vanno tutti i DJ che fanno musica con tutti questi aggeggi elettronici, che anche quello è una forma di arte, però è una cosa molto moderna che al musicista come me, della mia generazione, non appartiene, almeno per quanto mi riguarda. Però quindi noi continuiamo con la nostra sintonia a fare dei concerti, si ritorna un po' ai tempi di una volta, dove c'era la musica, dove suonava la musica e per ascoltare la musica la gente andava a concerti. Secondo te, ricollegandomi a quello che tu stai dicendo, quali sono gli ingredienti oggi per un prodotto di qualità, riferendomi alla musica ovviamente? Ma soprattutto la qualità è dovuta dall'impegno e dalla qualità dei musicisti, cioè musicista di musica che si impegna e che seriamente cerca di fare della musica da qualità, perché la gente si accorge dell'impegno. Assolutamente. L'emozione avverte l'impegno di un musicista che studia, lavora, e il sacrificio, tantissime, tutto quello che si sente attraverso lo studio e il suonare uno strumento. Poi ci sono anche altre forme, perché si può anche avere, anche facendo il DJ e lavorando tanto con l'elettronica, si hanno dei risultati di impegno e di sacrificio. Sono cose che si trasformano, però la musica bella e l'emozione resta sempre. Quindi alla fine la musica si trasforma, ha delle forme diverse, però in realtà mantiene sempre il suo impegno, mantiene sempre la sua comunicazione di emozione. Mi sembra veramente bellissimo questo tuo messaggio. Ho una curiosità, questa è proprio una curiosità personale. A parte le influenze musicali, c'è anche un'influenza letteraria nelle tue canzoni. Brussellando è soprattutto un programma letterario, quindi mi incuriosiva legare anche... Devo dire la verità, insomma, sono stato molto influenzato per quanto riguarda quando ho scritto canzoni in napoletano che hanno una poesia particolare, hanno un modo di proporsi particolare. Poi ho scritto delle cose anche in italiano che hanno avuto parecchio successo, ma io non sono un bravo, non sono un bravo scrittore da un punto di vista letterario, sono uno molto istintivo, uno che a volte si ripete e sono una grande critica, autocritica sia me stesso. Sono più un musicista che un poeta, tra virgolette, più uno che scrive dei testi come per esempio può fare Ligabue, come può fare Ivano Fossati, come possono fare altri colleghi bravissimi. Però io sono più un musicista, sono uno che è legato più alla musica, e quando ho scritto delle cose importanti in particolare l'ho fatto nella mia lingua. Ho fatto in napoletano. In napoletano possono stare le migliori che ho scritto dal punto di vista letterario. Ho ancora una curiosità, questa volta non riguarda la musica, ma riguarda il libretto. che accompagna il CD? È peculiare, particolare. Ci vuoi dire qualcosa in merito? È stato voluto da noi perché è autoprodotto da noi, è stato voluto proprio in questo modo, che avesse l'idea, che desse l'idea della mia storia, del mio percorso, attraverso i spartiti, attraverso le foto, attraverso i ricordi, attraverso le immagini, fino ad arrivare a Chicago, fino ad arrivare a New York, sono partito da Napoli, sono arrivato dappertutto, insomma, diciamo, quindi era un po' il mio percorso, questa. Infatti all'inizio in copertina c'è questo viaggio con la chitarra che uno... Esatto. È come se viaggiassi con la mia chitarra in giro per il mondo a portare la mia musica, a distrarre il messaggio. Quindi la grande madre, questo tour che tu hai avviato l'anno scorso, che ti ha portato in giro per il mondo, ti porta anche a Bruxelles. Allora io volevo, se tu fossi d'accordo, se potessi intonarmi un verso, quello che preferisci di Napolè. Al telefono mi sembra molto da cabina telefonica, non mi piace, lo faccio quando sarò in teatro. Perfetto, allora allora io veramente ci tengo a questa, perché è una canzone veramente stupenda e bellissima, però c'è un messaggio che vorresti lasciare ai nostri amici ascoltatori? Il messaggio è di conservare le proprie radici, quando riguarda gli italiani, di conservare le proprie radici cercando di fonderle con quello che si vive quotidianamente, giorno per giorno, ma non dimentichiamo, le nostre radici sono fondamentali. Assolutamente. Pino, io ti ringrazio a nome di Radio Alma, a nome di Bussoland. E concedimi ancora 5 secondi perché c'è una dedica che ti vogliamo dedicare, che è presa proprio dal tuo album, che credo sia l'ultima canzone, We Still Love You, che è dedicata a te. Grazie. Allora, al prossimo 8 giugno al Teatro San Michel alle ore 20 a Bruxelles. Ciao Pino, grazie. Ciao. Sì, eccoci qui, ben trovati a Radio Alme a Bruxellando. Allora, avete sentito questa intervista molto bella, molto suggestiva, soprattutto molto molto spontanea, fatta dal nostro Pino Daniele, che io ringrazio. Ringrazio anche tutto lo staff che ha reso possibile questa intervista. Quindi vi ricordo, sabato 8 giugno alle ore 20 a Teatro San Michel. Continuiamo invece con gli eventi e restiamo ad Etterbeek, che è sì, sicuramente uno dei paesi, dei comuni di Bruxelles più attivi. È riproposto il 21esimo mercato medievale, ovviamente di Etterbeek, che ripropone proprio tutte quelle che sono le cose tipiche medievali, il prossimo 17, 18 e 19 maggio, presso il Parco del Cinquantenario, quindi potrete vederlo anche camminando tranquillamente a piedi per la città. L'ingresso è ovviamente gratuito perché è una vera e propria esposizione. Si comincia venerdì dalle ore 16 alle ore 22, sabato dalle ore 10 alle ore 22, domenica dalle 10 alle 20. Tra l'altro lunedì è anche un giorno non lavorativo, il 20 maggio, e quindi per quanti volessero effettivamente sicuramente vale la pena partecipare, anche soprattutto se avete dei bambini curiosi di saperne di più sulle feste medievali. Poi invece c'è un evento che ha attirato particolarmente la mia attenzione, non so quanto possa essere attuale qui a Bruxelles, già che effettivamente c'è stato veramente un po' di primavera, qualche giorno, la prima settimana di maggio, almeno ci ha permesso di poter fare la festa dell'Europa, però poi è già andata via, tant'è che siamo nuovamente in inverno. Comunque, augurandoci che finalmente l'estate possa arrivare, c'è questo evento che si chiama Upsummer, che è un po' una novità, almeno io personalmente non ne avevo mai sentito parlare, e in realtà è proprio un nuovo evento organizzato per le Petites Puces, quindi Fête des Châtelains, Puces Nautiques, Châtelains sous Oxygène, che si svolge su due giorni, il sabato 18 maggio e la domenica 19 maggio, dalle Bois de la Cambre, au kiosque du Carrefour des Attelages. Quindi per quanti conoscono un po' la zona, non sarà difficile individuare per l'appunto l'incrocio principale, poi, che divide, credo, XL da UCL. Il primo giorno, UP comincerà alle 16 con un concorso di bocce. E per l'appunto, per quanti conoscono la zona, sapranno molto bene individuare proprio dove l'area destinata alle bocce, tant'è che è un'area permanente, quindi potrete individuarla facilmente. Poi ci sarà ovviamente un'app però, molto carino il gioco di parola. Poi alle 8 tutti coloro i quali saranno presenti saranno vestiti di bianco, quindi il colore della serata è il bianco, però dovete iscrivervi, quindi inviate un'email a event, quindi all'inglese event, @petitplus.be, i quali porteranno quindi picnic oppure gusteranno tutta una serie di specialità sia belghe, marocchine, thailandesi e italiane. Invece il secondo giorno saranno protagoniste le famiglie, quindi durante tutta la giornata le famiglie, i loro amici, gli abitanti del quartiere potranno condividere un picnic insieme sulle parterre del chiosco, e quindi ognuno potrà portare qualcosa che potrà condividere con gli altri. Eccezionalmente ci saranno delle tavole, delle grandi tavole, che saranno installate per l'occasione, nonché un bar e anche tutto il necessario affinché questo momento di convivialità possa ovviamente raccogliere il maggior numero di consensi. E tra l'altro ci sarà anche uno spazio dedicato per l'appunto ai più piccoli. Alle 18 le famiglie, gli amici delle famiglie e così via potranno ancora, se vorranno, rilassarsi intorno al bar. Quindi per prenotare il posto a tavola per app dinner, ancora event@petitplus.be, e la partecipazione è di €7,50, che copre sia ovviamente l'apero spritz, sia poi tutte le attrezzature di cui vi ho parlato poc'anzi. Quindi per quanti amassero un po' più la natura e non amassero le attività medievali, mi sembra essere un'ottima occasione. Invece, sempre restando in temi, diciamo, naturalistici, ci sarà il Salone del Cavallo al mercato coperto di Annou, qui siamo un po' fuori Bruxelles, sempre il 17, il 18 e il 19 maggio 2013. E potrete scoprire di più se andate al sito internet www.feria-andalusia.com/salon-cheval-annou, Annou con la T finale perché è una cittadina del Belgio. Quando? Venerdì dalle 19 alle 23, sabato dalle 11 alle 23, domenica dalle 11 alle 23, quindi riepilogando in date dal 17 al 19 maggio. Poi ritornano il circo probabilmente più amato e prestigioso, che è il circo di Buglione, che presenta il suo nuovo spettacolo che è Magic. Quindi quest'anno si rinnovano tutta una serie di magie, di tradizioni, di grandi illusioni che ovviamente si congiungono anche alla risata. Quindi pony, cavalli, dromedari, pantere daranno a tutti la compagnia necessaria per un divertimento sicuramente assicurato. La prima festa è già questa sera alle 20 e poi la seconda è domani sempre alle 20 presso Neuf Chateau, quindi al mercato coperto di Neuf Chateau. Per quanti volessero saperne di più, che Fair.be in prima pagina, e quindi potrete avere direttamente tutti gli altri dettagli. Poi una festa di cui parliamo sempre a Bruxellando e mi fa sempre piacere ricordarla è la festa della primavera, che inizierà anche quest'anno venerdì 17. Ma ci sarà la primavera al rendezvous? Questa è la domanda. Io non lo so, però comunque intanto noi facciamo in modo che ci possano essere tutta una serie di eventi, tipo quindi la rappresentazione dello spettacolo De Couleurs de la Belgique venerdì 17 maggio. Sto cercando l'orario, ma sicuramente. Poi sabato 18 maggio concerto tradizionale turco Siraj Cesi. Domenica 19 maggio spettacoli dei cervi volanti, lunedì 20 maggio, ripetiamo, essendo un giorno festivo, ci saranno tante animazioni per i bambini, e durante tutti e quattro i giorni ci saranno numerose attività per bambini, nonché deliziosi pasti da assaporare, soprattutto provenienti dalla gastronomia turca L'ingresso è gratuito e questo avrà luogo presso Place Albert a Monceau-sur-Sambre, quindi ritorna alla Vallonia, ma chiaramente essendo dei giorni di vacanza è anche più sicuramente favorita la mobilità, già che a volte si tende un po' a restare a Maredì. Bruxelles. Ricordo nuovamente a tutti i nostri ascoltatori che tutte queste informazioni, questi suggerimenti di eventi culturali sono presenti sul nostro blog. Andate nella parte destra del nostro blog, c'è scritto in programma Bruxelles e trovate tutte le informazioni. E soprattutto noi vi consigliamo caldamente, per chi naturalmente lo volesse, di iscriversi al nostro database in modo tale che potrete essere sempre al corrente delle nostre attività. Naturalmente voi potete visitare regolarmente il blog di Bruxellando, radioalma.eu/bruxellando, ma iscrivendovi alla mailing list avrete direttamente nella vostra casella email tutte le informazioni e soprattutto tutti i nostri podcast. Poi volevo anche, siccome sono tanti i bambini che ci ascoltano, volevo anche ricordare il Festival Internazionale dell'Arte per i più piccini, quindi Festival International L'Art et les Tout Petits. E questa è la 12ª praticamente edizione e avrà luogo presso il Teatro La Montagne Magique. Quindi dall'11 maggio, quindi è già cominciato, ma fino al prossimo 2 giugno, ci saranno 15 spettacoli che invitano proprio i più piccoli, dai 6 mesi ai 5 anni, a scoprire l'universo poetico oppure quello artistico. Infatti ci saranno artisti che vengono dal Belgio, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Italia e dal Quebec, e sono spettacoli di circa 4 minuti che praticamente vi inviteranno a scoprire qualcosa di nuovo. Ci saranno infatti artisti provenienti da diversi paesi, per esempio la Francia si esibisce sabato 11 maggio, quindi si è esibita sabato e domenica scorsa, così come anche il Quebec, mentre invece il Théâtre des Spiegel, che immagino essere fiammingo, si esibisce domenica 19 maggio a più riprese, alle 10, alle 14, alle 16 e lunedì 20 maggio alle 10 e alle 14. Invece dall'Italia Antonio Catalano presenterà Les Univers Sensibles, tic-tac, già il titolo è abbastanza interessante, domenica 19 e lunedì 20 maggio alle 10 e alle 14. Allo stesso tempo Antonio Catalano presenterà anche Concerto Fragile, sempre domenica 19 e lunedì 20 maggio. E la Francia partecipa con la compagnia Hop Hop Hop, Mille Poche, e presenta lo spettacolo alle 11 e alle 3 di domenica 19 e di lunedì 20 maggio. Invece sabato 25 e domenica 26 alle 10 e alle 3 l'Enid, Théâtre des Spiegel, e poi sempre sabato 25 e domenica 26 dalla Spagna Al Filito della Silla, quindi compagnia Al Filito della Silla, che presenterà Blues, Le Porte dell'Amore alle 11 e alle 16. Per quanti volessero saperne di più, telefonate allo 02 210 1590 oppure visitate il sito www.teatremontagnemagique.be. Cari amiche, cari amici, bentrovati a Radio Alma, Bruxellando, e noi siamo al termine di questa puntata anche questa sera. Ringrazio Marco Di Martino che è stato nostro ospite durante la prima parte della trasmissione. Gli auguriamo veramente tutto il meglio per la mise en scène di Euromillions e Notizia Ferale, che avranno luogo proprio il 31 maggio e il 1 giugno al Teatro Saint-Augustin qui a Bruxelles. Ringrazio Dani M. in regia. Grazie a tutti voi. Vi ricordo quindi l'8 giugno il concerto di Pino Daniele al Teatro San Michel, il 28 maggio Zucchero al Forêt National e di Gianna Nannini, il più vicino a noi, perché è il 24 maggio all'Ancienne Belgique. Tutte queste informazioni potete ritrovarle sul nostro blog che, ripetiamo, Dani M. radioalma.eu/bruxellando. Vi auguro un'ottima settimana, anche se è ritornato l'inverno, perché tanto avete Bruxellando, che è il vostro sole. Buona settimana a tutti da Maredì.